Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Se dopo anni che sei stato al governo, hai fatto il ministro di tutto, non riesci a prendere il 5% del voto degli italiani, è evidente che non possiamo fermar tutto per dare un potere di ricatto ai partitini. Così ha risposto, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, Matteo Renzi durante la registrazione di Porta a Porta, quindi questa era un'anticipazione di stasera, ad Alfano, che lo accusava di essere impaziente, di andare alle urne, di voler spendere miliardi per questa tornata elettorale, di aver fatto cadere lui i governi. Lui gli ha risposto: insomma, cosa ci possiamo fare? Se Alfano ha paura di non arrivare al 5%, questa è la soglia di sbarramento secondo la prossima legge elettorale, noi non possiamo bloccare tutto per Alfano. Insomma, la campagna elettorale si fa sempre più incandescente, man mano ci si avvicina alla possibilità, all'eventualità sempre più probabile che si vada al voto in autunno. Però ci occuperemo di molte altre cose questa sera qui Effetto Notte. Intanto questa notizia del commissario europeo per la salute che ha lanciato un allarme: c'è il rischio in Europa del ritorno della poliomielite. Ne parleremo con uno dei più noti virologi italiani, che è Burioni. E poi Trump, che annuncia già la situazione si era avvertita, diciamo, durante il G7 dei giorni scorsi di Taormina, ha deciso di ritirare gli Stati Uniti dall'accordo internazionale di Parigi sul clima. Che cosa potrebbe succedere quindi se proprio gli Stati Uniti si sfilano da questo accordo? Molti altri temi qui Effetto Notte, non perdete neanche un minuto, tra poco vi riassumo la giornata. Però vi ricordo anche che prima di approfondire i temi, i due canali privilegiati per voi per interagire qui con Effetto Notte sono pagina Facebook di Effetto Notte, che è lì per voi costantemente giorno e notte, oppure il numero per messaggi e WhatsApp 349 238 6666. Lo ripeto, 349 238 6666. Partiamo con la giornata. Manovra: la Camera dice sì alla fiducia, ma MDP si oppone alla reintroduzione dei voucher e sceglie di non votare. Ora la fiducia traballa in Senato, a rischio il governo Gentiloni. Banca Italia: la sollecitazione del governatore Visco, serve uno sforzo eccezionale per superare la crisi. Legge elettorale: Renzi scarica Alfano e commenta: è stato ministro di tutto, non si blocca il paese se non arriva al 5%. Lo strappo di Trump, il presidente americano verso il ritiro degli Stati Uniti dall'accordo di Parigi sul clima. A breve twitta: annuncerò cosa faremo. Afghanistan, strage a Kabul, 80 morti e 350 feriti, ucciso un autista della BBC. I talebani smentiscono ogni coinvolgimento. Roma: la sindaca Raggi annuncia: chiuderemo i campi Rom, basta mangiatoia di mafia capitale, useremo i fondi dell'Unione Europea. Salute: l'allarme lanciato dal commissario dell'Unione Europea Andriukaitis, c'è il rischio, dice, del ritorno alla poliomielite in Europa. TV: addio ad Anna Maria Gambineri, signorina buonasera della TV, aveva 81 anni. Ponte del 2 giugno, sono 8 milioni gli italiani in viaggio secondo Federalberghi, anche grazie alle previsioni del bel tempo. Sport: MotoGP al Mugello, Valentino Rossi dice: non è facile, ma voglio esserci. Partiamo quindi dalla manovra finanziaria, i cui destini si legano alla legge elettorale. Le vicende della legge elettorale si intrecciano con quelle della manovra economica. MDP annuncia che non voterà la fiducia al governo alla Camera per protesta contro l'inserimento delle norme sui voucher, e la maggioranza potrebbe essere a rischio al Senato con un'accelerazione verso il voto in autunno. Tutto questo mentre Matteo Renzi esce allo scoperto: il sistema tedesco non è il favorito, ma la soglia del 5% serve a sforbiciare i partitini. Cosa vuol dire? Che entrano in Parlamento pochi partiti. Oh, parliamoci chiaro. Poi bisognerebbe modificare i regolamenti parlamentari per evitare che, quando sono entrati in Parlamento, i gruppi parlamentari si dividano ulteriormente. Silvio Berlusconi poi nega che l'accordo sulla legge elettorale prefiguri un'intesa politica per la prossima legislatura, nessuna grande coalizione. Pronto il Movimento 5 Stelle, così Luigi Di Maio. È chiaro che se si anticipano le elezioni, come speriamo, cambia il nostro cronoprogramma. Presenteremo la squadra di governo prima delle elezioni politiche. Elisabetta Fiorito, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E per quanto riguarda la situazione economica, ci sono le parole del governatore di Banca Italia Visco a Roma, con apprezzamenti dalla platea, con parti sociali e banche. Chiude il suo mandato il governatore Visco difendendo quanto fatto dall'istituto di Via Nazionale di fronte alle crisi di tante banche. Siamo stati accusati di non aver capito cosa accadeva o di essere intervenuti troppo tardi. Non sta a me giudicare, posso solo dire che l'impegno del direttorio è stato massimo. Quindi da Visco le considerazioni sulla congiuntura economica del nostro paese. Serve uno sforzo eccezionale per superare la crisi. Gli squilibri vanno corretti, dice il governatore. Debito pubblico e crediti deteriorati rendono vulnerabile l'Italia. L'avvio di una diminuzione continua e tangibile dell'incidenza del debito sul PIL non deve essere ritardato. Avanti con le riforme, dice quindi Visco al mondo politico. Per cercare consenso servono programmi chiari e reali. Sono fiducioso che al di là dell'incertezza politica il nostro paese saprà ottenere risultati che servano l'interesse generale, tenendo conto di chi resta indietro e di chi arretra, liberando l'economia da inutili vincoli, rendite di posizione, antichi e nuovi ritardi. La questione occupazione è centrale ed è soprattutto su questo mercato che vediamo l'eredità più dolorosa della crisi, spiega il governatore. I miglioramenti, riconosce Visco, non sono stati accompagnati dal necessario cambiamento strutturale di molte parti del nostro sistema produttivo. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Chiara e pragmatica, con una visione di ottimismo per il futuro del paese, il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia applaude alla relazione del governatore di Banca Italia Visco, in particolare all'invito affinché funzione pubblica, imprenditori e lavoratori costruiscano una stagione di corresponsabilità. Noi dobbiamo fare in modo che la crescita sia una precondizione per combattere diseguaglianze e povertà, non antitetica a questi elementi. Occorre costruire un'idea di società oltre che di innovazione tecnologica, e su questo noi vogliamo giocare una grande partita nell'interesse del paese. Un'analisi molto ampia sulla crisi e sui ritardi dell'Italia, ha commentato Emma Marcegaglia, presidente ENI, condividendo l'appello ad andare avanti sulla strada delle riforme. Particolarmente apprezzato dai sindacati invece il passaggio sulla centralità del lavoro, Camusso, CGL. Siamo molto contenti che l'abbia detto, perché siamo assolutamente convinti che quella è la questione centrale per il cambiamento di cui il paese ha bisogno, e siamo anche molto contenti che abbia definito quel tema è la quantità e la qualità del lavoro. Grande convergenza di analisi e proposte, dice infine il presidente dell'ABI Patuelli, una valutazione molto nitida sullo stato di salute delle banche che, a suo dire, si sono fortemente rafforzate in questi ultimi anni. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E a proposito di dati del lavoro, oggi sono arrivati dati positivi. La disoccupazione scende all'11,1% ad aprile, ai minimi dal 2012. Nel raffronto annuo ci sono 277.000 occupati in più, grazie alla crescita del lavoro degli ultracinquantenni, stabile il tasso dei senza lavoro tra i più giovani. E adesso parliamo dello strappo di Trump, che avrebbe deciso di ritirarsi dall'intesa sul clima. Donald Trump avrebbe deciso di fare il grande passo e ritirare gli Stati Uniti dall'accordo di Parigi sul clima. Prima indiscrezioni su informatissimi siti web che parlavano di annunci imminenti, poi un tweet dello stesso presidente. La decisione verrà annunciata tra qualche giorno. Il protocollo di Parigi è stato sottoscritto nel 2015 da 195 paesi, praticamente tutti gli stati al mondo tranne Siria e Nicaragua. L'America di Barack Obama era stata tra i più attivi promotori. Ora rischia di saltare tutto. Eppure oggi la notizia più condivisa sui social su fronte Trump è stata un'altra, infinitamente più stupida, ma si sa la rete amplifica ogni fenomeno possa scatenare ironie. Migliaia di condivisioni per un tweet che recitava: «Nonostante la costante stampa negativa, cov feve». Parola dalla pronuncia, dal significato misterioso. Le interpretazioni spiritose non si contano. E lo stesso Trump ci ha scherzato con un altro tweet. Chi riesce a capire il vero significato di cov feve? Buon divertimento! Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Restiamo all'estero, in Afghanistan, dove è salito ad almeno 90 morti e 400 feriti il bilancio ufficiale dell'attentato compiuto con un camion bomba a Kabul, stilato dal governo afghano. Questo rapporto, l'attentato non è stato ancora rivendicato, mentre i talebani hanno comunque declinato ogni responsabilità. Il consiglio degli ulema afghani, dei leader religiosi, ha condannato questo attentato, affermando che compiere attentati simili nel mese sacro del Ramadan è totalmente contro l'umanità. Di nuovo in Italia, adesso a Roma, per l'annuncio importante di oggi della sindaca Raggi. superare i campi nomadi attraverso un patto di responsabilità fra amministrazione e famiglie rom. Punta a questo il piano presentato dal Campidoglio. L'obiettivo è quello di garantire condizioni di vita migliori, ma anche fermare la mangiatoia che per troppi anni c'è stata sui campi da parte della criminalità e di Mafia Capitale, spiega la sindaca Virginia Raggi. L'Italia ha avuto per anni a disposizione fondi europei che non ha mai utilizzato e ha continuato a spendere tra i 24 e i 30 milioni annui per mantenere in vita i campi. Noi andiamo a prendere le risorse europee e iniziamo quel percorso di superamento che da anni Roma e l'Italia chiedevano. I primi insediamenti che il Campidoglio intende smantellare nei prossimi due anni sono quelli della Barbuta e della Monachina, con un impegno economico di 3 milioni e 800 mila euro per i rom che decideranno di lasciare i campi. È prevista la possibilità di fare richiesta per alloggi popolari o contributi per l'affitto, ma solo a quelli che ne avranno diritto in base al reddito e composizione familiare. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E parliamo adesso di salute, per l'allarme lanciato dal commissario dell'Unione Europea alla salute Andriukaitis, che dice: per quanto riguarda la polio, la grande Europa è diventata polio free nel 2002. Questo status di essere immune, insomma, dalla polio, dice, ora è a rischio a causa della bassa immunità della popolazione e delle lacune di immunizzazione anche nei paesi dell'Unione Europea. A questo proposito, poi qui effetto note sarà ospite tra poco il virologo Burioni. Per quanto riguarda il turismo, secondo i dati Federalberghi, per il ponte del 2 giugno sono in partenza circa 8 milioni di italiani, con preferenza come meta per il mare naturalmente. Ne parleremo tra poco di questo. E poi un lutto in televisione, per la televisione Anna Maria Gambineri, storica biondissima signorina buonasera della RAI, è morta oggi a Roma. I funerali si terranno sabato 3 giugno alle 11.30 nella Chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo. Suo era uno degli amatissimi volti che per anni hanno annunciato i programmi della TV pubblica e anche il segnale orario. Era nata a Roma il 22 marzo del 1936, aveva quindi 81 anni ed era malata da tempo, e proprio per motivi di salute aveva lasciato la RAI, dove aveva lavorato dal 1958 al 1994. Per chiudere lo sport, cominciando da Valentino Rossi, che torna a parlare dopo l'incidente della scorsa settimana. Dario Ricci. Sì, buonasera. Farò di tutto per esserci, è il messaggio che Valentino Rossi consegna ai propri tifosi in vista del Gran Premio d'Italia di domenica al Mugello. Parole che fanno pensare che il recupero dall'infortunio rimediato durante un allenamento di motocross giovedì scorso stia procedendo al meglio, ma che al tempo stesso non sia ancora completo. Domani la visita medica di rito. In questi casi Valentino dovrebbe ricevere l'ok per poter poi provare direttamente in pista venerdì proprio al Mugello le proprie sensazioni tornando in sella alla propria Yamaha. Sarà quello un po' il test decisivo per capire se Rossi potrà essere della partita. Sarebbe importante non solo per i propri tifosi, ma anche e soprattutto per una corsa mondiale che da un'eventuale assenza nel Gran Premio d'Italia verrebbe ulteriormente compromessa, visto anche lo zero rimediato con quella sciagurata caduta all'ultimo giro nel Gran Premio di Francia alle Mans. Insomma, forza Valentino, speriamo davvero di poterlo vedere della partita domenica al Mugello. Grazie Dario Ricci. Per poi c'è proprio il calcio in chiusura. Questa sera alle 21.30, quindi tra circa un quarto d'ora, l'Italia di Ventura affronta la squadra di San Marino al Castellani di Empoli. Ventura manderà in campo un'Italia sperimentale, i giocatori che hanno partecipato agli stage. Bene, direi che con il calcio abbiamo riassunto tutta la giornata, almeno i fatti principali dall'Italia e dall'estero. Adesso, fra poco, come sempre, cioè la viabilità, e poi cominceremo ad affrontare alcuni argomenti in particolare con gli ospiti. Per i vostri commenti, pagina Facebook di Effetto Notte, che è sempre lì per voi, oppure il numero dove potete mandare SMS e WhatsApp, che è 349-238-6666. Clotilde scrive: ho capito perché il bullo alla smania delle elezioni, penso si riferisca a Renzi, subito dice, l'inchiesta Consip, una volta eletto godrà dell'immunità e voilà, si spiega anche il sistema tedesco quando lui avrebbe voluto il maggioritario. Che ne pensa? Ma Clotilde, intanto nella vicenda Consip è indagato il padre, però con tutti i rivoli e le varie filoni dell'inchiesta non risulta in nessuno indagato Matteo Renzi. E in più ha voluto voleva il maggioritario, che ne pensa, che adesso vuole il tedesco. Sembra che sia l'unico modello attorno al quale, insomma, c'è stata una convergenza trasversale, ne abbiamo parlato diverse volte in questi giorni, no? Non solo il PD ma il Movimento 5 Stelle, Forza Italia, quindi le principali forze in Parlamento. Bene, dopo di questo i vostri messaggi a dopo e anche i primi ospiti. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Notizie che tra poco vi ricorderò, se non avete acceso puntualmente alle 21, alla fine voglio ricordare un po' a tutti quelli che anche arrivano un po' in ritardo qui effetto notte, quali sono i fatti principali della giornata, che nessuno rimanga indietro, in modo che un giorno non potrete dire io non lo sapevo a proposito di una notizia importante. Stavo guardando ancora i vostri messaggi, molti sulla politica. Dice Francesco da Piacenza, scrive: Alfano ha fatto tutte le leggi ad personam per Berlusconi, molti non se le dimenticano, con Renzi è stato un buon ministro ma la sua storia è tutt'altro che encomiabile, vada pure a casa, secondo Francesco. E poi invece dice Stefano: la presa in giro è che in Italia possano nascere partiti in Parlamento, intanto si parla di quale legge elettorale scegliere, nel senso, anche ieri c'era un ascoltatore che diceva in realtà poi i partitini nascono perché per scissioni interne ai grandi partiti, beh non solo per quello. Comunque tra poco allora andiamo su altri, sui temi principali, quelli appunto che svolgerò insieme ai primi ospiti. Però prima di tutto, appunto, dicevo le notizie importanti, voi continuate sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666 i titoli. Manovra, la Camera dice sì alla fiducia ma MDP si oppone alla reintroduzione dei voucher e sceglie quindi di non votare. Ora la fiducia traballa in Senato e potrebbe essere a rischio il governo Gentiloni. Banca Italia, con la sollecitazione del governatore Visco, che dice serve uno sforzo eccezionale per superare la crisi. Per quanto riguarda la legge elettorale, Renzi scarica Alfano e commenta: è stato ministro di tutto, non si blocca il paese se Alfano non arriva al 5%. Queste sono le schermaglie tra Renzi e Alfano in questi giorni. Lo strappo di Trump, invece il presidente americano verso il ritiro degli Stati Uniti dall'accordo di Parigi sul clima, poi parleremo anche di questo. Afghanistan, questa strage a Kabul, almeno 90 morti, 350 feriti, ucciso anche un autista della BBC, ma i talebani smentiscono ogni loro coinvolgimento. A Roma la sindaca Raggi annuncia che chiuderà i campi Rom, basta mangiatoia di mafia capitale, dice, useremo i fondi europei. Salute, l'allarme lanciato dal commissario europeo alla salute, che dice c'è il rischio del ritorno della poliomielite in Europa, e anche su questo faremo un approfondimento. E poi TV, addio ad Anna Maria Gambineri, signorina buonasera della televisione, aveva 81 anni. Ponte del 2 giugno, ne parleremo tra pochissimo. Sport, MotoGP al Mugello, Valentino Rossi dice non è facile ma voglio esserci. E per una volta incominciamo parlando di sole, di estate, che è decisamente in anticipo, come sentirete dalle temperature, con un ponte tra l'altro molto atteso, questo del 2 giugno, e per il quale molti italiani stanno scaldando i motori, e nonostante l'anno scorso il ponte fosse più lungo di un giorno, sembrerebbe che, almeno dai dati di Federalberghi che sono stati pubblicati oggi, ci sono numeri in crescita rispetto al 2016. Federalberghi ricordo sono associati oltre 27.000 dei 33.000 hotel italiani, e secondo la rivelazione sul prossimo fine settimana lungo saranno circa 8.7.77 per la precisione gli italiani che si concederanno un primo assaggio di queste vacanze estive, dormendo almeno una notte fuori casa e quindi segnando la crescita rispetto all'anno scorso, al 2016, è un più 8,8%. Il 93% degli italiani che si muoverà in preferenza in Italia, e naturalmente il mare è sempre la meta preferita. Allora, a questo proposito, prima di tutto vorrei sentire un albergatore di una perla della Liguria che è Porto Venere, e saluto Abramo Prandi, che è titolare del Royal Sporting Hotel di Porto Venere, nonché presidente di Federalberghi della provincia di La Spezia. Buonasera Prandi. Buonasera a lei, buonasera. Senta, lei conferma, il suo albergo è stracolmo, le prenotazioni in overbooking, come va? No, sì, ha detto lei tutto, siamo in overbooking, siamo già completo da una settimana, perciò si preannuncia un ponte di quelli tipo Pasqua, ecco, per capirci. E poi il tempo è previsto buono, perciò non ci dovrebbero essere problemi. Speriamo. Soddisfatto, ma le risulta anche a lei che c'è questa crescita rispetto alla sua esperienza al suo albergo rispetto all'anno scorso? Sì, rispetto all'anno scorso sicuramente questo ponte è sicuramente migliore quest'anno. Adesso non ho avuto il tempo di guardare com'era il tempo l'anno scorso, che influisce per capire anche molto. Certo. Si produce molto, è una percentuale del 20-30% le previsioni del tempo, perciò se l'anno scorso dava brutto, quest'anno sta dando bello, che caldo il coso, sicuramente questo è l'effetto maggiore. E quindi non ce la possiamo prendere neanche con i meteorologi, no, a questo punto? No. No. Le presenze sono in aumento comunque, sia fra quelle straniere che quelle italiane in questo periodo, come primi due mesi di stagione, perché noi siamo già da metà marzo che siamo aperti, esatto. Perciò abbiamo una visione abbastanza ampia. Quello che però non è poi il massimo è che la gente è molto più attenta, molto più parsimoniosa. Sì, è vero, fanno una media bassa di dormire, ma fanno una media molto più bassa di mangiare. Insomma, d'altronde una via di mezzo, Prandi, nel senso che lei diceva all'inizio è soddisfatto quindi dell'afflusso di quest'anno, no, io turistico, sono soddisfatto dell'afflusso, dall'altra c'è la crisi e quindi noi siamo in difficoltà perché poi abbiamo una staff di persone che fanno questi servizi professionali al massimo, e però poi ci trovi a non fare i numeri che facevamo prima, ecco, questo è il problema. Questo porterà sicuramente a una revisione del sistema e a un calo del collaboratore, dei dipendenti. Questo poi incide sull'occupazione, però è tutto, diciamo, un effetto domino, no? Da una parte buoni numeri di cui parlavamo e parlava anche lei, e Prandi, dall'altra la gente comunque subisce inevitabilmente la crisi e tutto si ripercuote sugli albergatori, sui turisti stessi, è tutto un circolo in questo caso vizioso, ma anche in parte virtuoso, insomma, dai numeri che abbiamo sentito. Abramo Prandi, io le auguro quindi buon lavoro, buonissima stagione, e la ringrazio. È un nuovo modo di fare vacanze. Adesso la gente è cambiata completamente, bisogna cambiare anche i servizi. E infatti tra poco ne parleremo. Grazie Armando Prandi, ricordo del Royal Sporting Hotel di Porto Venere. Grazie. Grazie a lei, buon Grazie. Lavoro. E quindi a proposito di come cambiano, devono cambiare l'offerta di turismo da parte di albergatori, di tutti coloro che vivono di turismo, e anche di quali sono attualmente, insomma, le abitudini e le preferenze degli italiani, vorrei coinvolgere Silvestro Serra, che è direttore di Touring, il mensile del Touring Club italiano. Silvestro, buonasera. Buonasera a te Roberto, buonasera a tutti. Quindi hai sentito un po' che cos'è? Ho sentito sì. Fisicamente anche quando le cose vanno bene, secondo me non è un atteggiamento particolarmente positivo, ma insomma io invece... Bicchiere centro... mezzo vuoto ha visto l'albergatore. Sì, invece noi, il centro studi del Turi ha fatto anche loro i loro studi, confermano che poi non è solo questo ponte che va bene, ma sono tutti i ponti sono andati bene. Diciamo che i dati sono ormai positivi, strutturalmente positivi da tempo nel turismo. Continuiamo a essere il quinto paese più amato, più desiderato e più frequentato del mondo, che con 1,5 miliardi di turisti, insomma averne 50 milioni, 54 quanti sono, 50,7 non è poco, anche se non siamo più il primo paese, ma insomma adesso sono arrivati i cinesi, ci sono tanti altri diciamo attori nel sistema, quindi io la vedo ancora positiva. Tenete presente che magari non è tutto merito nostro, ecco, questo va detto, sì, questo è un dato non particolarmente brillante, nel senso che effettivamente c'è ancora l'effetto Expo, ci sono la situazione del medio diciamo del sud del Mediterraneo, che ovviamente ha convogliato molti turisti a restare sul nostro territorio e non andare ovviamente dalla Tunisia all'Egitto. La paura del terrorismo e anche ovviamente il fatto che considerano questo paese abbastanza sicuro, quindi diciamo tutti gli elementi che giocano a nostro favore. Ecco, dovremmo cercare di sfruttarli e diventare, quello sì, dal punto di vista dei servizi competitivi con tutti gli altri, e questo siamo ancora poi indietro. Che cosa suggeriresti? Diciamo che la cosa è complicata, perché è un settore molto molto complicato e poco capito ancora, c'è poca coscienza sia da parte del pubblico che da parte anche degli stessi imprenditori dell'importanza strategica, dell'importanza di questo settore del turismo, che invece forse è davvero la nostra grande possibilità. E quindi, per esempio, noi siamo molto favorevoli a questo piano strategico del turismo del Ministero, che punta sui piccoli borghi, che punta sul turismo sostenibile, che punta su, diciamo, a scoprire l'Italia, che non è il solito triangolo Firenze-Roma-Venezia, dove, come vedete, ci sono sempre problemi invece di superaffollamento e quindi di scarsa convivenza tra ospitanti e ospiti. Se dovessi dire, Silvestro Serra, che ne pensi dei vari siti, operatori internet, da Booking ad altri, no? nel modo, sì, di, guarda, di vivere e di organizzarsi la vacanza? Che la cosa che colpisce nel turismo è un po' come nella nuova tecnologia, cioè c'è una vitalità pazzesca che cerca di rispondere alle nuove domande, che sono turismo diversificato, personale, esigente e anche attento ai denari, che ne dicano gli imprenditori, insomma veramente i soldi sono quelli che sono, ma soprattutto vogliono fare esperienze i turisti. E allora per fare questo ci sono inventati di tutto, noi abbiamo inventato l'agriturismo, abbiamo poi sviluppato l'Airbnb, per dirtene una, c'è l'ospitalità alternativa agli alberghi, c'è nato il car sharing, c'è il Flixbus, questi autobus che per pochi euro ti portano in tutta Europa, e poi forme di turismo diverse, i cammini, le biciclette, le ciclovie, adesso è arrivato il low cost intercontinentale, cioè come dire, è un settore che si reinventa continuamente e quindi tutta la tecnologia funziona ed è, certo, il rischio è che sbanalizzi tutto, diventi come dire, andare da Helsinki o a Bilbao è la stessa cosa in un weekend che fare un'esperienza, insomma, però questo, ripeto, dipende un po' da chi lo fa e come lo fa, perché comunque le possibilità ci sono molto di più di quanto ci fossero qualche anno fa, quindi io la vedo positiva. Grazie Silvestro Serra, direttore di Touring Messina e Touring Club Italiano. Ciao Silvestro. Grazie a voi, buona serata, ciao. Buon fine settimana, buon ponte se lo farai, e però ci deve dire adesso il nostro Paolo Corazzon di Trevi Meteo che tempo ci sarà, visto che l'albergatore, il titolare dell'albergo di Porto Venere diceva è favorito anche il fatto che siano pieni i nostri alberghi, gli hotel, dal fatto che c'è bel tempo e tu ce lo garantisci, non è vero Paolo Corazzon? In un recente passato grandi polemiche albergatori contro meteorologi. Ecco, quindi stai attento a quello che dici. Guarda, no, per fortuna buone notizie, tutti al mare, cari miei, perché sarà un ponte o comunque un lungo weekend con bel tempo, soprattutto proprio al mare, al centro-sud tempo splendido tutti e tre i giorni, anche al nord in realtà situazione tranquilla, però il nord, ecco, avrà qualche temporale in montagna, quindi Alpi, Prealpi e magari nel tardo pomeriggio di venerdì anche sull'alta pianura padana qualche temporale, ma quelli di calore, no? I temporali estivi di breve durata. Quindi weekend estivo direi in tutta Italia, domenica però verso sera i temporali dalle Alpi scenderanno in maniera decisa verso le pianure del nord, quindi si finisce questo lungo weekend con il maltempo in arrivo sulle regioni settentrionali, però ti ripeto, solo tra il tardo pomeriggio e la sera di domenica avremo questo marcato peggioramento al nord con temporali diffusi. Prima tutto fila liscio, al mare situazione tranquillissima, temperature estive in tutta Italia, quindi partite tranquilli, ve lo godrete alla grande. Lo garantisce me. Paolo Corazzon di Trevi Meteo, caro Paolo, buon tempo a te comunque sia. Grazie, buon ciao tempo Paolo. A tutti. Quindi insomma, diciamo, si rovina, si guasta il tempo almeno al nord quando poi bisogna tornare per chi fa il ponte o almeno anche il fine settimana. Direi che con queste buone notizie possiamo per il momento fermarci, prendere una breve pausa di ricreazione. I vostri messaggi continuate a mandarli sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349 238 6666. Dice Walter: questi vendono il sistema elettorale tipo tedesco, ritornando alla politica, per far credere alla gente che è buono come un'automobile delle loro, perché visto che è tedesco, dice Walter, l'ennesima nefandezza. Insomma, vedremo, però c'è questa convergenza dei maggiori partiti, per cui devono pur trovare un accordo che piaccia o no a noi, e poi quando si voterà, adesso capiremo però quali sono gli eventuali correttivi. Poi chiede Paolo da Genova: ciao Roberta, come hanno reagito l'anacronistico annuncio di Trump alle associazioni ambientaliste americane, che storicamente sono molto attive e che per prime hanno contribuito alla sensibilizzazione mondiale sui temi ecologici? Ne parleremo tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice con voi, Roberta Giordano. Riprendiamo allora il filo delle notizie. Abbiamo parlato di questo, così, in modo un po' diverso dal solito, del tempo soleggiato che attende coloro che faranno il ponte del 2 giugno, anche comunque nel fine settimana, con le buone notizie di Federalberghi. Dice questo ascoltatore, Igor, che dice: oh, gli albergatori mai contenti, c'è sempre qualcosa per lamentarsi. Perché c'era questo albergatore di Porto Venere in Liguria che diceva: sì, tutto bene, è vero che sono cresciuti l'interesse, i viaggiatori, eccetera, quest'anno c'è una percentuale maggiore rispetto all'anno scorso, è andata già bene la stagione a partire da aprile-maggio, però per quanto riguarda la ristorazione, insomma, è vero che bicchiere, insomma, un po' mezzo pieno, bisogna dirlo a un certo punto. E poi anche con Silvestro Serra del Touring Club abbiamo parlato di quanto comunque sia necessario, che le cose sono positive, è necessario anzi incrementarle, incentivarle, fare in modo di offrire servizi sempre più adeguati. Adesso però ci occupiamo di cose meno leggere, tra pochissimo, di questo rischio di ritorno della poliomielite in Europa, è l'allarme lanciato dal commissario europeo alla salute. Però se non avete acceso puntualmente, vi ricordo che quali sono le notizie principali. Stavo guardando intanto Italia-San Marino, che è un amichevole che si sta giocando questa sera ad Empoli, per il momento prosegue 0-0. Manovra, la Camera dice sì alla fiducia, ma MDP si oppone alla reintroduzione dei voucher e sceglie di non votare. Adesso la fiducia potrebbe venir meno al Senato e quindi sarebbe a rischio il governo Gentiloni. Banca Italia, con la sollecitazione del governatore Visco, che dice che serve uno sforzo eccezionale per superare la crisi. Legge elettorale, Renzi attacca Alfano, c'è vera e propria rissa tra Alfano e Renzi a questo punto, e Matteo Renzi commenta: è stato ministro di tutto, non si blocca certo il paese se non arriva al 5%, a proposito della soglia di sbarramento prevista da quella che dovrebbe essere la nuova legge elettorale. Lo strappo di Trump, il presidente americano verso il ritiro degli Stati Uniti dall'accordo di Parigi sul clima. E poi la strage in Afghanistan, a Kabul, almeno 90 morti, quasi 400 feriti, ucciso anche un autista della CNN, ma i talebani al momento smentiscono ogni coinvolgimento. L'annuncio della sindaca Raggi a Roma, dice: chiuderemo i campi Rom, basta la mangiatoia di Mafia Capitale, dice che useranno per questo i fondi dell'Unione Europea. Per quanto riguarda la salute, l'allarme lanciato dal commissario europeo, di cui parleremo tra pochissimo. E poi l'addio ad Anna Maria Gambineri, signorina buonasera della RAI, aveva 81 anni. Il ponte del 2 giugno, abbiamo appena parlato, sono 8 milioni gli italiani in viaggio secondo i dati Federalberghi. E poi sport, MotoGP al Mugello, Rossi dice: non è facile ma voglio esserci. Si potrebbe dire, usando una frase ormai trita e ritrita, inflazionatissima, tratta da un libro di Stephen King e poi dal film che ne fu prodotto, a volte ritornano. E chi è che ritorna? A volte succede anche con le malattie che magari pensavamo fossero ormai debellate. In questo caso parliamo di poliomielite, perché il commissario europeo per la salute, che è il cardiologo lituano Andriukaitis, ha detto che c'è il rischio di un ritorno in Europa della poliomielite. E dice: l'Europa era polio free, cioè ormai immunizzata, libera dalla poliomielite dal 2002, ora non più a causa della bassa immunità della popolazione e delle lacune di immunizzazione anche nei paesi dell'Unione Europea. Il commissario ha sottolineato che al mondo ogni anno sono 100 milioni di bambini che vengono vaccinati contro malattie come la difterite, il tetano, la pertosse, la tubercolosi, la polio, il morbillo e l'epatite B, e che le campagne di vaccinazione evitano una cifra stimata in 2 milioni e mezzo di morti ogni anno nel mondo. Ma appunto lo stesso commissario europeo lancia questo allarme, dice: il più grave riguarda proprio la poliomielite, la malattia della paralisi infantile irreversibile. Di questo vorrei parlare con uno dei virologhi più seguiti, esperti di vaccini, che è il professor Roberto Burioni, virologo, docente di microbiologia e virologia all'Università Vita Salute San Raffaele di Milano. Professor Burioni, buonasera. Buonasera e grazie a voi per l'attenzione. Burioni, quindi effettivamente si rischia il ritorno della poliomielite? Sembra quasi un termine desueto, non eravamo più abituati quasi neanche a considerarlo. Ringraziando il cielo, sì, perché è dal 1982 che in Italia non c'è più la poliomielite, però purtroppo nel mondo ancora la poliomielite c'è in Nigeria, c'è in Afghanistan, c'è in Pakistan, perché purtroppo in questi paesi ci sono guerre, ci sono difficoltà sociali che impediscono una vaccinazione estesa e quindi questo virus circola ancora e se dovesse arrivare nel nostro paese sarebbe auspicabile che si potesse scontrare con una copertura molto ampia che viene fornita da un vaccino estremamente sicuro, estremamente efficace. Purtroppo i tassi di vaccinazione calano, purtroppo in alcune zone del nostro paese dove sono molto attivi i gruppi antivaccinisti la copertura è insufficiente e quindi se malauguratamente una persona con la poliomielite, che può anche essere apparentemente asintomatica, e mentre elimina il virus dovesse malauguratamente arrivare nel nostro paese, ci potrebbe essere il rischio. Il rischio che possiamo evitare semplicemente alzando le coperture vaccinali. Burioni, ma da noi quindi al momento e da anni non si fa la vaccinazione antipoliomielite o si fa? La vaccinazione contro la poliomielite si fa, però c'è da dire una cosa molto importante. La facciamo con un vaccino che è estremamente sicuro, ma che non è il più efficace che abbiamo. Il vaccino più efficace che abbiamo, che è quello chiamato a virus attenuato, è stato usato fino al 2002 ed è quello che ha eradicato la poliomielite. E teniamo conto che nel 1958 in Italia ci sono stati 8.000 casi, grazie a questo vaccino sono stati azzerati. Questo vaccino che però è molto efficace, purtroppo ha un problema, che in un caso su circa 700.000 somministrazioni causa una poliomielite e noi non lo usiamo più, fortunatamente. Ne usiamo uno molto più sicuro che non ha questo problema ma un po' meno efficace. Se dovesse malauguratamente tornare la poliomielite saremmo costretti a tornare a usare il vecchio vaccino che ci darebbe degli effetti collaterali gravi. Quindi il modo migliore per non avere effetti collaterali dalla vaccinazione è vaccinare tutti quanti i bambini. Senta, in cosa consiste esattamente? Che tipo di malattia è la poliomielite? La poliomielite è una malattia virale causata da un virus che si trasmette molto facilmente, un virus molto resistente, insidioso perché può essere emesso anche da persone che non hanno sintomi. Questo virus si trasmette attraverso gli alimenti, attraverso l'acqua contaminata e infettando può dare una sindrome gravissima che può portare alla paralisi e addirittura alla morte. L'esempio di quanto sia importante continuare a vaccinarci a una comunità olandese. Ci sono dei protestanti olandesi. Burioni, la sento male adesso, forse si sta Pronto? Muovendo col telefono. Ecco, adesso la sento meglio. Eccomi qua, mi scusi. Grazie. C'è una comunità protestante olandese che rifiuta la vaccinazione perché dice che bisogna lasciare a Dio la possibilità di dare un premio con la salute o castigare con la malattia. Quindi questi, per motivi religiosi, non vaccinano. E non vaccinano contro la poliomielite. Bene, l'ultima epidemia che abbiamo avuto in Europa è stata proprio tra questi protestanti che non si vaccinano in Olanda e hanno avuto 57 paralisi e 2 morti. Ecco, queste cose non le vogliamo vedere. Bisogna che tutti quanti vacciniamo i nostri figli, come ho fatto io con mia figlia, per proteggere non solo loro stessi, ma anche tutta la comunità. Professor Burioni, lei lo sa, no? Lo sa bene che soprattutto ultimamente quando si parla di vaccinazioni obbligatorie, ci sono quelli che vanno contro a prescindere, no? Immediatamente la reazione aggressiva e c'è chi fra i genitori magari può essere preoccupato perché dice ma in rari casi ci sono delle reazioni avverse perché non si investe di più per studiare queste possibili reazioni, per farne una questione individuale attraverso i bambini, è una cosa difficile, si può fare, già si fa? Ma è una cosa soprattutto inutile perché le reazioni avverse gravi che vengono causate da questo tipo di vaccini sono nell'ordine di un caso ogni qualche milione di somministrazione e si riducono sostanzialmente in quella che viene chiamato shock anafilattico, una grave reazione avversa del sistema immune che può essere trattata da un medico, reazione che è immensamente più frequente quando un bambino mangia per la prima volta una noce oppure se viene punto da una vespa. Il rischio sicuramente più grande che corre un bambino quando si va a vaccinare contro la poliomielite lo corre da casa al centro vaccinale in automobile. Sono veramente vaccini sicurissimi. Burioni, un'altra cosa, così cerchiamo così di fugare i vari dubbi. Ogni volta che qualcuno parla di vaccini, che è un particolare sostenitore come lo è lei, ci sono delle persone che insinuano che ci sia comunque un interesse dietro, le lobby farmaceutiche, eccetera. Lei come potrebbe fugare questi dubbi, queste insinuazioni? Dicendo che cosa? Con i numeri. Prima di tutto i vaccini contro la poliomielite non sono brevettati, gli scopritori li hanno donati e non hanno tratto alcun beneficio economico da essi. Il fatturato nel 2015 di tutti i vaccini, tutti messi insieme, anche quelli per gli adulti, è stato di 318 milioni di euro in Italia. Sembra molto, ma è solo l'1,4% della spesa sanitaria. Una sola malattia, una sola, per la quale non abbiamo il vaccino, l'epatite C, ha generato un fatturato per i farmaci che la trattano di circa 1 miliardo e 700 milioni di euro. Quindi immaginare un complotto mondiale che interessa l'UNICEF, Emergency, Medici Senza Frontiere, tutti gli scienziati del mondo per una fetta di fatturato che è poco più dell'1% è abbastanza irreale. In realtà i vaccini sono dei farmaci che non convengono alle case farmaceutiche, ringraziando al cielo, ma convengono a noi, perché ogni euro speso nei vaccini fa risparmiare almeno 20 in spese sanitarie, non contando il dolore e il lutto e la paura delle malattie. Quindi, per carità, le case farmaceutiche non sono degli enti di beneficenza, ma il fatturato dei vaccini è oggettivamente molto molto basso. Professor Burioni, ancora due cose. C'è un ascoltatore che scrive: nel mondo c'è anche la malaria, perché non facciamo tutti anche la profilassi della malaria? Purtroppo perché non c'è un vaccino. Se qualcuno riuscisse a mettere a punto un vaccino contro la malaria, che ogni anno uccide centinaia di milioni di persone, per lo più bambini, sarebbe una delle più grandi scoperte della medicina. Purtroppo il problema non è che i vaccini sono troppi, il problema è che i vaccini sono pochi. Contro la malaria purtroppo non ce l'abbiamo, contro l'epatite C non ce l'abbiamo, contro l'HIV che causa l'AIDS non ce l'abbiamo. Sarebbe molto bello averli, ma non sempre si riesce a metterli a punto. Professor Burioni, lei è intervenuto e quindi arrivano le domande. E dice Paola da Firenze: potrebbe il professore spiegare perché vaccinare un neonato contro tetano ed epatite nelle pappe e nei biberon non mi pare vi siano rischi? Non è vero, l'epatite B è una malattia molto pericolosa anche per i neonati, prima di tutto perché è una malattia che può essere trasmessa con grande facilità. Pensi che sono stati descritti con certezza una trasmissione, per esempio, che è avvenuta perché un bambino ha morso un altro bambino. Addirittura è stato descritto un caso con certezza, nel senso che il virus sorgente era identico al virus che poi è stato trovato nella persona contagiata. Bene, un bambino ha contagiato una maestra perché gli ha starnutito nelle mani screpolate. E non solo, quando un adulto contrae l'epatite B, tipicamente nel 95% dei casi si ammala ma guarisce. Quando invece un bambino molto piccolo a contrarre l'epatite B, nel 95% dei casi la malattia non guarisce e lo porta a avere gravi problemi. Tutto il mondo usa la vaccinazione dei bambini perché si è visto che è quella che è in grado letteralmente di fare sparire una malattia molto molto grave. Questo virus potrebbe fare la fine del vaiolo se continuiamo a vaccinare tutti quanti. Professor Burioni, per chiudere, lei lo sa che la ministra Lorenzin ha proposto la medaglia d'oro al merito per lei della sanità pubblica, dice, per il suo impegno costante a difesa della scienza nella promozione delle vaccinazioni come indispensabile e fondamentale strumento di prevenzione della salute pubblica. Non credo di darle io la notizia, la sa di questa cosa? Sì, l'ho saputo oggi pomeriggio, la stampa del ministero. È una cosa che mi onora moltissimo e che spero di meritare, perché è un veramente per un cittadino italiano, per un medico, è un grandissimo onore, una cosa che mi lusinga, ripeto, spero di meritarla con il mio impegno. Grazie professor Roberto Burioni, grazie e buon lavoro allora. Grazie a lei, buonanotte. Viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Notizie che vi ricordo in pochi secondi, Roberto Giordano sempre con voi. Visco, il governatore di Banca Italia, dice l'incertezza frena il paese, serve uno sforzo eccezionale per ridurre il debito, per superare la crisi. Intanto, secondo i dati Istat, la disoccupazione in Italia è al minimo da aprile. Rissa ormai a livello politico tra Renzi e Alfano, la legge sul voto sarà in aula il 5 giugno. Intanto il governo incassa la fiducia sulla manovra, ma MDP gliela nega e probabilmente ci saranno problemi poi al Senato, perché MDP non è contrario all'introduzione, alla reintroduzione dei voucher. Trump pronto a uscire, il presidente americano, dall'accordo di Parigi, ne parleremo tra pochissimo. E poi strage a Kabul in Afghanistan, nella zona delle ambasciate, i talebani dicono noi non c'entriamo, ci sarebbero almeno 90 morti e 400 feriti, ucciso, scusate, anche un autista della BBC. E poi la sindaca di Roma Raggi che annuncia: chiuderemo i campi Rom, basta la mangiatoia di Mafia Capitale, useremo i fondi europei. E addio ad Anna Maria Gambineri, signorina buonasera della RAI, aveva 81 anni. Occupiamoci adesso di cambiamenti climatici e Donald Trump, perché sono fortemente legati, nel senso che il presidente americano pare sia pronto a ritirare gli Stati Uniti dall'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, un accordo che era stato raggiunto dopo anni e anni di incontri, di negoziati, eccetera, eccetera. La notizia è rimbalzata su vari siti americani, in particolare su Axios, e vi ricordate che già nel G7 di Taormina, di cui abbiamo parlato e col quale ci siamo collegati nei giorni scorsi, con Effetto Notte, già Trump aveva detto che doveva pensarci sulla questione del clima, che è rimasto il tema in sospeso, la grande incognita del G7 di Taormina, e ha detto che ci avrebbe pensato nei giorni seguenti. Ora Trump ha scritto via Twitter: annuncerò la decisione nei prossimi giorni, a proposito di questa indiscrezione. Ricordo che il protocollo di Parigi è stato sottoscritto il 12 dicembre 2015 da 195 paesi, quindi quasi da tutto il mondo tranne che Siria e Nicaragua, e Barack Obama, l'America di Barack Obama, era stata tra le principali sostenitrici di questo accordo. Ora che fa? Trump si sfila? Sembra che però nelle ultime ore stia frenando. Vedo un'agenzia, un dispaccio dell'agenzia di poco fa, dove poco prima c'era questo, dalla Casa Bianca, questo comunicato. Il portavoce Spicer diceva: sul clima bisogna attendere l'annuncio del presidente. E poi agenzia invece di adesso dice: sto sentendo molte persone su entrambe le parti, avrebbe detto Donald Trump rispondendo ai giornalisti che chiedono informazioni sulla sua decisione circa l'accordo sul clima. Allora ne voglio parlare con Luca Lombroso, che è divulgatore scientifico, meteorologo dell'Osservatorio Geofisico dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Lombroso, buonasera. Buonasera, buonasera. Ne abbiamo parlato appena oggi anche a Parma, sono stato ospite del Festival dello Sviluppo Sostenibile e naturalmente l'argomento ha tenuto banco anche nelle domande. Protagonista Trump, quindi che fa Trump? Mi pare un po' sull'indeciso, prima sembrava da queste indiscrezioni che sono rimbalzate sui siti che fosse assolutamente certo di sfilare gli Stati Uniti da questo accordo, sembra piuttosto intenzionato, però piccole frenate in serata, lui dice sto sentendo entrambe le parti. Infatti la notizia in realtà non è ancora ufficiale che è uscito dall'accordo di Parigi, chissà, magari io gli ho inviato anche un mio libro con una lettera che può fare che l'abbia letta e che mi abbia ascoltato, chissà. Magari ascolta anche Effetto Notte in questo momento e l'ascolta anche esatto, qui, chissà. Esatto, e che venga più miti ragioni. Secondo me il punto, cioè se esce sicuramente un segnale molto grave, e perché l'accordo di Parigi senza la partecipazione di tutti, quindi di tutti i paesi del mondo, ma anche della società civile, delle imprese, non può reggere, non può raggiungere i suoi obiettivi. D'altra parte 17 stati federali degli USA hanno detto che comunque andranno avanti lo stesso con il loro piano di riduzione delle emissioni e di investimento nelle rinnovabili per verso la decarbonizzazione. È arrivata, è un processo che progressivo. Mi scusi, è arrivata anche la conferma della Cina, no? Che è importante, visto che è il paese più inquinante, è arrivata la conferma che seguirà l'accordo. In realtà il paese più inquinante sono gli Stati Uniti, e poi anche ce ne sono alcuni che sono ancora più inquinanti ancora, perché dobbiamo dimenticarci che la Cina ha 1.300.000.000 di abitanti e gli Stati Uniti ne hanno 300 milioni, quindi in rapporto alla popolazione un americano inquina il doppio del cinese, quindi questo è il primo dato di fatto, cioè in realtà gli americani sono protagonisti ed essenziali per il rispetto dell'accordo di Parigi, che comunque anche il protocollo di Kyoto andò avanti senza gli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti avevano obblighi, l'hanno firmato, non l'hanno ratificato, quindi comunque quel processo che ha avviato Parigi va avanti lo stesso. Il problema serio si pone se Trump, ma non credo che arriverà tanto, dovesse uscire non solo dall'accordo di Parigi, ma dall'intera convenzione del clima stipulata a Rio de Janeiro nel 1992. Professor Lombroso, le chiederei proprio in sintesi, uno, quali sono proprio in modo molto semplice i punti principali dell'accordo di Parigi, e poi che cosa potrebbe succedere, un'ipotesi, nel caso Trump si ritirasse da questo accordo? L'obiettivo dell'accordo di Parigi è contenere l'aumento delle temperature globali ben al di sotto di 2 gradi rispetto all'era di aumento massimo rispetto all'era preindustriale, con impegni che sono stati presi dalle nazioni in un metodo nuovo, cioè dal basso. Sono degli impegni che non sono stati negoziati a tavolino, sono stati presentati dai vari paesi e che, ahimè, questo è il limite dell'accordo di Parigi, non è che prevedono sanzioni se un paese ha firmato e poi esce oppure non rispetta gli impegni. È un impegno morale verso le giovani generazioni, se vogliamo, è un impegno per il futuro stesso, dice la Banca Mondiale, della civiltà globale interconnessa. Quindi, per sintetizzare, se ne uscissero gli Stati Uniti, insomma, sarebbe mezzo disastro. Sarebbe probabilmente la fine dell'umanità. Per la natura sarebbe un ottimo, cioè, da un punto di vista dell'ambiente non sarebbe un grosso problema, dal punto di vista della nostra società sì. Chiarissimo, più chiaro di così. Professor Luca Lombroso, la ringrazio, le auguro buona serata. Buona serata. Grazie. Direi che ci lasciamo con un risultato Italia-San Marino di 4-0 per l'Italia. Mi sembra che non ci sia partita, ci risentiamo alle 22.